Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Buona serata e ben ritrovati da Mirko Cavallin. Siamo ormai alla fine dell'anno scolastico, manca praticamente una ventina di giorni, considerando anche le elezioni comunali previste in diverse località. E di scuola parliamo oggi con l'incontro annuale per i dirigenti delle scuole presenti nel territorio della Diocesi di Padova, l'incontro che è stato ospitato dall'Abbazia di Praglia sabato 22 aprile scorso. Incontro col vescovo Claudio, l'intervento anche del professor Andrea Porcarelli. La cultura che serve, serve ovviamente nel doppio significato verbale. Scuola e chiesa si interrogano. Sentiremo un'ampia sintesi di quella mattinata, a cominciare dall'introduzione del direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale dell'educazione della scuola, Don Lorenzo Celi. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Dico che sono davvero tanto contento perché, come l'anno scorso, i fogli preparati per la preghiera e le cartelline che avevamo pensato di preparare rispetto alle adesioni non sono bastati. Quindi è un bel segno questo, che dice l'attenzione per questo momento da parte vostra, ma vi assicuro da parte di tutta la nostra Chiesa. Dentro alla cartellina trovate una copia della Difesa del Popolo, il settimanale diocesano, e con mia grande sorpresa ho scoperto giovedì mattina che è stata dedicata la copertina del settimanale proprio a questo nostro momento. È un segno, credo, importante, che dice l'attenzione della nostra Chiesa per il mondo della scuola che voi oggi rappresentate. Inoltre, dentro alla cartellina, mi sono permesso anche con i miei collaboratori di inserire alcune proposte che riguardano un po' tutti voi. Anzitutto un altro momento di sosta, una sosta sabbatica di riposo, che vivremo il 6 e 7 maggio presso la Casa di Spiritualità di Asolo. Qualche anno fa si faceva qui a Praglia, quest'anno abbiamo scelto di invertire un po' i luoghi, e anche quella può essere un'occasione per fermarci, per parlarci, per dialogare un po' insieme e anche trovare un po' di riposo. E poi un'anteprima anche delle proposte formative per il mondo della scuola che, come pastorale della scuola, dell'educazione della scuola, abbiamo pensato per voi per il prossimo anno scolastico, già accreditate presso il MIUR e quindi rivolte non solo agli insegnanti di religione, ma anche ai dirigenti e a tutti i vostri collaboratori. Poi troverete dell'altro materiale relativo al Museo Diocesano, all'Istituto di Scienze Religiose, che spero possa esservi di qualche utilità anche per vivere quell'argomento, quella tematica che il professor Andrea Porcarelli, che ci onora della sua presenza, ci aiuterà ad introdurre, e poi potremo anche condividere in un dialogo semplice e familiare, come il vescovo Claudio e il dottor Bergamo hanno chiesto sia questo momento che stiamo vivendo insieme. Do subito la parola al dottor Bergamo per i saluti e ancora grazie. Buongiorno, sono un po' giù di voce, di questi tempi forse è meglio essere giù di voce. Io l'altra volta non avevo preparato un discorso, stavolta l'ho scritto, quindi avete la bontà di ascoltarmi e di leggermi. Era più anche un ringraziamento al Vescovo, ma ovviamente un ringraziamento anche a tutti voi per aver deciso di abbandonare le vostre attività abituali, i vostri uffici e le vostre ansie e le vostre preoccupazioni. Caro Don Claudio, a nome di tutti i dirigenti scolastici della provincia di Padova, mio personale e idealmente di tutto il mondo della scuola padovana, statale e paritaria e della formazione professionale, la ringrazio sentitamente per questo momento. È sempre un piacere poter incontrare il Vescovo di Padova, soprattutto in considerazione di ciò che lei rappresenta e guida, cioè la Chiesa di Padova, che come la Scuola di Padova ha a cuore l'educazione dei nostri ragazzi. Ad essi noi rivolgiamo principalmente il nostro pensiero quotidiano, il nostro impegno professionale, la nostra passione educativa, condividendo con altre agenzie la preoccupazione per il loro futuro, consapevoli che dalla bontà dei nostri sforzi dipenderà in parte il loro futuro, ma di riflesso anche il futuro della nostra società, che oltre a definirsi liquida, come ci ricordano alcuni studiosi, appare sempre più complessa e a volte ostile alle categorie più deboli e più fragili, come si presentano alcuni nostri studenti. Questo incontro, al pari di quello dello scorso anno e dei precedenti compiuti con il suo predecessore, Monsignor Mattiazzo, costituisce un momento culturale molto importante, perché consente a scuola, formazione e chiesa di testimoniare l'importanza di camminare insieme, pur nella diversità dei propri ruoli istituzionali e nella consapevolezza che proprio per la complessità della società attuale nessuno può bastare a se stesso. Caro Don Claudio, sicuramente lei ricorderà il giorno del suo ingresso a Padova, durante il quale i suoi più stretti collaboratori offrirono al sottoscritto l'opportunità di rivolgere un saluto di benvenuto nella nostra provincia, ma nel contempo offrirono alla scuola padovana la possibilità di essere presente al suo insediamento e, una volta tanto, di godere dell'onore delle cronache in senso positivo e costruttivo. Troppo spesso i mass media e una fetta prevenuta e superficiale dell'opinione pubblica ci dipingono per ciò che non siamo, insensibili e distratti, mentre le nostre scuole statali e paritarie e la formazione professionale si distinguono per un lavoro costante, silenzioso e prezioso, che trova nel sorriso di un bambino o nel grazie di molti genitori le sue più alte soddisfazioni. Sappiamo che lei conosce il valore delle nostre scuole e che ha a cuore la mission su cui ogni giorno le scuole e i loro operatori si impegnano per dare il meglio di se stessi. È un lavoro difficile, ma sappiamo che lei lo conosce e lo apprezza. Oggi le offriamo il nostro grazie e il nostro sorriso per averci invitato in questo bellissimo luogo di cultura e di riflessione. Ci affidiamo al pensiero di Don Milani, tramite il professor Porcarelli, per ritrovare o rinverdire alcuni stimoli pedagogici che non dovrebbero mai mancare nel nostro lavoro. Mi consenta infine di ringraziare il direttore dell'ufficio scuola, Don Lorenzo Celi, per la sua instancabile opera al servizio della scuola padovana e per le offerte formative di qualità che ogni anno ci regala. Mi consenta anche di ringraziare il gruppo di dirigenti che ha elaborato i contenuti di questo incontro. Non li nomino per il timore di dimenticarne qualcuno, ma ad essi va il mio applauso, spero anche il suo, perché costituiscono uno spaccato e una viva testimonianza di quanto i nostri dirigenti, tutti, nel chiuso dei loro affollati uffici, tra una scuola di titolarità e una scuola in reggenza, tra un consiglio di classe e un collegio docenti, tra un RAV e un consiglio d'istituto, offrono al servizio delle giovani generazioni. Grazie per questo incontro e buona giornata. E ora lasciamo la parola al professor Porcarelli, che ci aiuterà ad introdurci alla tematica di questa giornata, la cultura che serve. E già il virgolettato ci dice che dietro a questa parola ci stanno significati diversi. E caro Andrea, ti chiediamo di aiutarci proprio anche a passarli in rassegna per poi poter dialogare e discutere tra di noi. Il professor Porcarelli è docente associato di pedagogia all'Università di Padova, ma anche nella sua diocesi di origine, Bologna, svolge importanti funzioni come formatore, come direttore di centri culturali, insegna all'Istituto Veritatis Splendor dei Padri Domenicani e soprattutto sta svolgendo un'instancabile opera formativa attraverso tutta la penisola, sul piano delle competenze. e ci ha aiutato forse tra i primi in Italia ad affrontare questa tematica nuova per il mondo della scuola e ancora continua in questo servizio. Prima di lasciargli la parola, mi permetto anche di ringraziare Blue Radio Veneto che sta trasmettendo questo nostro incontro, un modo anche questo per essere in rete, il network comunicativo, e così permettere che anche altri nel vasto territorio della nostra diocesi possano beneficiare di quanto andremo a dirci. Ringrazio a mia volta, mi metto in piedi così vi vedo meglio, e ringrazio a mia volta per questo invito. Anzi, devo dire, i motivi di gratitudine sono più d'uno. Primo, per la scelta del tema che avete fatto col gruppo di dirigenti che ha organizzato questo incontro, perché il tema è davvero molto stimolante. Poi non so se mi sono lasciato stimolare a sufficienza, ma questo lo valuterete voi. Secondo, per la scelta del luogo, perché effettivamente questo è un luogo, devo dire, anche dentro al contesto pausa di riflessione, che per molti di noi che viviamo immersi nelle cure della quotidianità è una sorta di miraggio, no? E il fatto di essere in questo luogo lo rende un po' più credibile, no? Il senso della pausa di riflessione. E infine anche, non so chi ha provveduto a questo, per la bella giornata che ci ha accolto, qualcuno dei presenti avrà fatto quello che era in suo potere per poter, diciamo, consentirci di essere accolti anche con questa bella giornata solare. La cultura che serve. Potrei effettivamente partire con una battuta di Don Milani, no? La cultura serve solo per darla, e così mi metto anche in sintonia un poco con alcuni degli elementi che caratterizzano l'insieme dei percorsi che ha portato a questa giornata. Fondamentalmente però volevo prendere un'altra linea come punto di partenza. Oggi come oggi siamo abituati a collegare gli apprendimenti, vale per la scuola, vale anche per l'università, gli apprendimenti a quello che può essere, diciamo, lo spazio di utilità che essi possono avere, diciamo così, nel mondo della realtà, nel mondo del lavoro. In qualche modo, in uno scenario culturale in cui si fa sempre più fatica a delineare i contorni di una paideia condivisa dal punto di vista educativo, è più facile trovarsi d'accordo su alcuni elementi di natura funzionale. Non so a cosa può servire la cultura nel suo complesso. C'è stato anche qualche ministro che ha detto che è meglio andare a fare altre cose, che con la cultura non si mangia, che altro, tutte cose che confortano evidentemente chi lavora nel mondo della scuola, nel mondo dell'università, nel mondo ecclesiale, cercando di fare cultura e di promuovere l'educazione. Però in qualche misura potremmo dire, se rispetto allo scenario culturale di fronte a cui ci misuriamo alla ricerca di una paideia condivisa, anche il mondo della Chiesa, mi riferisco in particolar modo a Papa Benedetto XVI nella sua lettera sull'educazione, ha parlato di una dittatura del relativismo, a me sembra che per noi che siamo inseriti negli universi formativi formali, nei sistemi formativi formali, si potrebbe parlare di una sorta di dittatura del funzionalismo. Mi spiego con due esempi. Il primo lo traggo dalla mia vita professionale attuale. Io sono stato per 20 anni professore nella scuola superiore e adesso da 10 anni insegno all'Università di Padova. Il primo esempio lo traggo dalla mia vita professionale. Durante la prima settimana di lezione, io insegno pedagogia generale e sociale, quindi una delle materie, se vogliamo, che un tempo venivano definite fondamentali, era un corso biennale per quelli che facevano pedagogia una volta, anzi biennale la generale e annuale la sociale. 3 annualità. Adesso ho dovuto fare la cura dimagrante, non nel senso fisico come ben si vede, ma dal punto di vista culturale, in un semestre devo far sia la generale che la sociale, quindi ho questa sensazione di angustia degli spazi. Ma perché? Perché non serve. è una materia di tipo culturale, fondativo, un po' teorico, e la prima cosa che ti viene chiesta è: ma a cosa ci serve nel nostro percorso di studi? Se devo essere sincero, a proposito di dittatura del funzionalismo, la prima domanda che ricevo nella prima settimana di scuola è un'altra: scusi prof, come sarà l'esame? No, io ho un bel da provare a dire, ma tranquilli, sarà bellissimo, un'esperienza da affrontare con gioia e ripetere più volte, ma di solito non basta a rassicurare le mie studentesse questo tipo di esortazione. Però anche questo tipo di richiesta in qualche modo è figlio di una cultura funzionalista. Cioè, sì, d'accordo, tu vuoi propormi un percorso culturale, dici che riguarda cose interessanti per un educatore, visto mai la pedagogia potrebbe essere interessante per un educatore o per un formatore, ma prima di tutto dimmi a che serve e che cosa ti serve per farmi passare l'esame, per farmi passare l'esame. E quindi è chiaro che in questo senso c'è un segno dei tempi, se vogliamo usare anche un linguaggio consono al luogo, cioè in qualche modo il segno di un immaginario culturale, di un milieu culturale che i ragazzi si portano appresso dei loro primi 18-19 anni di vita e con cui arrivano, diciamo così, anche nelle aule delle università, per quelli che poi frequentano le aule universitarie. Quindi in questo senso, dittatura del funzionalismo, secondo livello di questo tipo di scenario culturale, addirittura per noi all'università già da un po' di tempo, ma anche nel mondo della scuola in tempi più recenti, dichiarare a priori le competenze che uno si porterà a casa. Noi siamo inseriti nel sistema cosiddetto dei descrittori di Dublino, che in qualche modo identifica addirittura a livello internazionale quelli che sono i sistemi di competenza. Dopodiché a ogni docente viene data l'indicazione: in un corso di 9 crediti, 60 ore in tutto, quali e quante competenze mi garantisci che tutti si porteranno a casa? Sapete che è una domanda imbarazzante, nel senso che io posso dire che tipo di percorso culturale propongo e con quali indicatori valuterò, ma che tipo di competenze si porteranno a casa i miei studenti dopo 60 ore di corso, sinceramente faccio un po' fatica a prevederlo a priori sulla base delle attività didattiche che intendo svolgere. Perché? Perché in realtà, e qui entro già in un dialogo all'interno del tema che mi è stato affidato, in realtà dipende da cosa intendiamo per competenza. Se per competenza intendiamo il modo in cui uno reagisce a uno stimolo predeterminato, allora d'accordo, io determino a priori a quali stimoli ti sottopongo e dichiaro a priori quali saranno le tue competenze. Ma se per competenza, parlo dei miei studenti, intendo il modo in cui uno farà tesoro da un certo tipo di insegnamento e lo incarnerà nel mondo del lavoro, nel mondo dell'educazione, io scopro che cosa si sono portati a casa i miei studenti quando l'anno dopo vengono per il tirocinio e mi chiedono di accompagnarli nel tirocinio, e in quel momento io capisco per davvero che cosa si sono portati a casa, cosa hanno metabolizzato, cosa hanno trattenuto, che cosa hanno fatto loro e che cosa, qui lo dico e qui lo nego, avevano studiato solo per l'esame. Perché ogni tanto succede che qualcuno degli studenti che la prima settimana di corso ti chiede come sarà l'esame, dopo aver dato l'esame non ricorda tantissimo per la vita a venire di tutto quello che è stato fatto. E quindi è chiaro che da questo punto di vista anche il meccanismo, e questo è anche il lavoro che mi capita di fare, in questo momento lo sto facendo con diverse scuole, anche qui in Veneto, alcune sono anche qui presenti, o in altre città d'Italia, esattamente dopo i rapporti RAV, in molte scuole ci si è fermati a fare una pausa di riflessione, cioè a riflettere sul modo in cui ciascuno sta interpretando questa sfida attuale, che è davvero la sfida delle competenze, e sulle modalità con cui è anche pedagogicamente sensato proporre alla scuola di promuovere e certificare eventuali competenze. Questo è un ragionamento che a mio avviso non è il tema in specifico di oggi, ma è il modo in cui in qualche misura il mondo della scuola attualmente può incontrare una delle sfide di maggiore attualità in questo momento, che a sua volta si collega anche lo stesso lessico con cui ci esprimiamo rispetto a questo tipo di tematica, si collega a quella che ho chiamato dittatura del funzionalismo, cioè la sensazione che noi dobbiamo dichiarare a che cosa serve ciò che stiamo facendo, come percorso culturale, come proposta formativa. Mi chiedo se la domanda a che cosa serve è la domanda giusta, è la domanda più profonda. La domanda non potrebbe essere a chi serve, o meglio, per chi serve quello che noi stiamo facendo? Ecco, io credo che fondamentalmente di fronte a questo bivio, che è un bivio pedagogico sulle modalità di interpretare la missione della scuola. La missione della scuola, ed è anche un tema dibattuto da anni nell'ambito della pedagogia della scuola. Compito della scuola è quello di erogare pacchetti formativi e quindi un'istruzione eventualmente traducibile in competenze documentate che io possa certificare e che poi il mondo intero riconosca attraverso quella certificazione come credibili nella forma in cui gliele ho certificate? Lascio un punto di domanda, no? Questo è un elemento, oppure è quello di educare attraverso l'istruzione, e dunque la persona competente è colui che, oltre a un sapere, oltre a un saper fare, ha anche un saper cosa farsene di quello che sa e di quello che sa fare, e si porta appresso il tesoro che ha maturato dentro di sé, non solo rispetto, diciamo così, agli obiettivi di tipo funzionale che la scuola stessa propone. Perché io ho il problema degli esami a fine corso, ma anche nella scuola ci sono un po' di interrogazioni, un po' di esami e un po' di appuntamenti rispetto ai quali ancora una volta uno può avere un atteggiamento di tipo funzionalista, perché c'è poco da fare. Chi semina funzionalismo raccoglie funzionalismo. Quindi da questo punto, cioè, se il messaggio che io do è che la cultura che ti propongo è in funzione di ciò a cui serve, chi recepisce questo messaggio, poi si chiede: benissimo, allora facciamola più breve ancora, a te cosa serve perché io me ne possa andare in qualche modo indenne o con uno sconto della pena? No, questa è un'altra delle richieste che ricevo. Dice: ma scusi professore, per coloro che sono frequentanti nel suo corso di pedagogia, non è che c'è un preesame in cui uno si toglie una parte del corso? Non è che c'è uno sconto della pena, un libro in meno da studiare o cose di questo tipo, no? Quindi, come dire, guarda, può interessarmi frequentare, ma se serve, cioè se è in funzione di uno sconto della pena dello studio, che non è un premio, no? È una pena. Allora lì, anche lì, tentare di dare il messaggio: io non faccio preesami, non ho programmi diversi per frequentanti e non frequentanti e cose di sto tipo, che la frequenza serve se io sono capace di spiegare qualcosa, nella speranza che qualcuno capisca meglio o addirittura che capisca cosa farsene di quello che sta studiando in questo percorso formativo. Se no, non serve, nel senso che non vi do un buono sconto per l'esame, i bollini della COP o qualcos'altro in cambio della frequenza, no? E c'è poco da fare. Questo discorso che noi stiamo facendo fondamentalmente si può riportare a tutti gli ambiti, si può riportare in tutti i contesti e fondamentalmente dipende dal tipo di messaggio che siamo noi per primi a dare. E quindi in qualche modo rilancio ancora questa domanda, non a che cosa serve la cultura, la scuola, l'insieme degli apprendimenti che eventualmente potrebbero tradursi in competenze, ma intese come? Competenze funzionali o competenze personali? Persone competenti o soggetti che hanno delle competenze? Sono anche quelli due modi diversi di interpretare lo stesso tipo di costrutto, ma come si suol dire, tutto quello che viene ricevuto prende la forma del recipiente. A seconda di come interpreto la mission della scuola, vado poi a interpretare anche quello che ci metto dentro, compreso il costrutto della competenza, su cui mi permetto solo una piccola notazione parentetica, anche a fronte di modelli di certificazione tendenzialmente piuttosto imperativi nella forma e nella prescrittività che hanno, ma che comunque non mi vincolano allo spirito e alla logica pedagogica educativa con cui me ne servo, perché anche i modelli di certificazione bisogna vedere se me ne servo o li servo. Cioè, pedagogicamente parlando, se sono un mezzo per raggiungere un fine che va oltre la certificazione stessa, o sono il fine a cui oriento l'attività formativa e didattica al fine di produrre quel tipo di certificazione. Modello di certificazione con qualche assestamento che è sempre possibile fare nei minimi, purtroppo pochi, spazi di flessibilità che ci sono, bene o male quello lì, stando qui mi verrebbe da dire quel che passa il convento del ministero in questo caso, ma è quel che passa il convento, ma dall'altro lato però lo spirito con cui do un'anima a questi stessi oggetti dipende da me, dipende da noi, dipende dalla comunità professionale, degli insegnanti, del dirigente e di tutti coloro che in qualche modo partecipano a questa comunità professionale e che riescono più o meno a dare un'anima anche a questo tipo di vincolo o sfida che è quella che adesso stiamo vivendo. Potremmo dire, e qui arrivo ad alcune riflessioni conclusive, proprio perché mi interessa molto lanciare alcuni stimoli per poi raccoglierli attraverso il dialogo, potremmo dire due cose che mi stanno particolarmente a cuore rispetto al discorso che vi ho fatto. Ah, ecco, tra l'altro segnalo che alla pagina 24 della difesa del popolo che avete in cartelletta c'è anche un testo scritto in cui ho elaborato, un po' focalizzato alcune di queste idee e consegnato, diciamo, al giornale diocesano della diocesi di Padova, quindi insomma alcune cose le potete eventualmente ritrovare in questo testo. Due idee fondamentali, una che traggo come riflessione a consuntivo del ragionamento che vi ho fatto e una che mi rilancia, diciamo, una suggestione che voglio prendere da Don Milani, che in qualche modo quest'anno in particolare ci accompagna, come è stato anche detto, all'interno di un certo percorso di riflessione e che peraltro è un autore che io ho studiato in modo abbastanza particolare, con passione, e ho avuto occasione in questo anno di centenario anche di andare in diverse circostanze a presentare. Allora, partiamo dalle cose meno serie, cioè la riflessione mia, poi arriviamo a quella più seria, che è quella di Don Milani. Quindi, in qualche modo, potremmo dire che rispetto ai beni utili che si collegano alla cultura che la scuola stessa è chiamata a far sì che si rigeneri. Ecco, volevo in particolare sottolineare questo termine. La cultura non si trasmette, si rigenera nella mente e nel cuore di coloro che autenticamente se ne appropriano. Io posso tentare, non è un pacco che io posso impacchettare a priori, definendo a priori una serie di competenze attese, per poi verificare a posteriori se il mio pacchetto così impacchettato è stato trasmesso, cioè è giunto al destinatario, un poco come si fa con la tracciabilità delle raccomandate del servizio postale, no? Vado a verificare se il pacchetto inviato è arrivato integro fino al destinatario. È chiaro che la cultura, come si dice, non da oggi, lo diceva Platone, gli allievi non sono vasi da riempire ma fuochi da accendere, e quindi in qualche modo niente di nuovo sotto il sole, no? La cultura non si trasmette, si rigenera nella misura in cui le persone a cui la offro trovino in essa uno stimolo interiore, cioè un qualche motivo di interesse personale che faccia sì che desiderino farla loro per sé stessa. Aristotele sottolineava molto il senso di inutilità. Lui lo diceva della filosofia perché faceva parte del sindacato dei filosofi che evidentemente lo incaricava di promuovere e perorare quella causa. No, io col sindacato dei pedagogisti sto cercando di dire che la pedagogia serve a qualcosa, quindi anch'io sto facendo sostanzialmente la stessa operazione, però riprendendo quello che diceva questo antico maestro a cui sempre ci si riferisce con piacere e che mi è stato stimolato esattamente da questo tema, perché alla domanda ma la cultura che serve, Aristotele avrebbe risposto: la cultura, se è autentica, non serve a niente. Ma lui utilizzava il termine servire o essere libero proprio a partire dalla metafora della libertà o schiavitù delle persone. Dice: così come per una persona, per un cittadino, è meglio vivere da cittadino libero piuttosto che essere schiavo, così per quello che entra dentro alla tua mente è meglio che ci entri con un senso di libertà e non in funzione di un obiettivo esterno a te. Niente di nuovo sotto il sole. Io direi non ho nulla da aggiungere a quello che diceva Aristotele esattamente nella forma in cui lo diceva, e facendo anche gli esempi, ma dice: il filosofo fondamentalmente, rispetto ad altri soggetti che hanno una cultura utile, l'avvocato e così via, fa la figura del fesso, del pirla, e anche Platone lo descriveva come tale, no? Fa un po' la figura del fesso perché non ha questa cultura utile, cioè che serve a vincere una causa in tribunale, a far vincere le elezioni a qualcuno. All'epoca c'erano i sofisti che cercavano di curare le campagne di comunicazione per coloro che si presentavano alle elezioni. Adesso per fortuna questa cosa non usa più, ma all'epoca c'era questo tipo di attitudine e c'era qualcuno che veniva anche pagato per farlo, no? E rispetto a queste persone, Aristotele e Platone sottolineavano come l'inutilità rispetto a fini esterni è garanzia della libertà interiore dentro a cui solo la cultura si può rigenerare. Se non ho questa libertà interiore, ciò che si rigenera non è la cultura, ma è un bene di natura funzionale che perdura dentro alla mia mente solo per quel tanto che serve a raggiungere il fine esterno a me. E quindi, come ha raggiunto il fine esterno, passata l'interrogazione, superato l'esame, raggiunto l'obiettivo di vincere la causa o di fare eleggere qualcuno o che altro, quello che è transitato dalla mia mente, da essa se ne esce, perché non ha nessuna ragione di restarvi, di restare nella mente e di restare nel cuore. Io credo che recuperare questo elemento della lezione di Aristotele, applicandolo ai costrutti concettuali e pedagogici e didattici con cui ci dobbiamo misurare oggi a partire dal discorso delle competenze, credo che possa essere, dal mio punto di vista, quantomeno così lo trovo, illuminante, perché talvolta alcune consapevolezze profonde semplicemente le dimentichiamo, non le abbiamo vive e presenti, ma sono lì, sono a disposizione di chi vuole. Potrei dire, evocando anche un'espressione espressione evangelica, cercate prima, il Vangelo dice le cose di lassù, ma cercate prima il valore che ha in se stesso ciò che apprendete e ciò che fate vostro, tutto il resto, superare gli esami, servirvene a titolo professionale, farne buon uso se nel mondo del lavoro verrete chiamati in causa per qualche ragione, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. E questo è anche quello che io vedo sia nei miei studenti più bravi, quando li rincontro per il tirocinio, no? Quelli che in fondo hanno studiato con passione perché avevano questo tipo di passione, guarda caso sono poi quelli che vivono l'esperienza del tirocinio con maggior consapevolezza ed entusiasmo, guarda caso sono poi quelli a cui capita che qualcuno gli dica: tu ragazzino, tu ragazzina, non è che finiti gli studi vuoi tornare qui, che un posticino per te forse ci sarebbe? Ma perché? E questi, quando me lo vengono a raccontare, fondamentalmente dicono: ma io non ho mica fatto niente. Non è vero. Tu hai fatto esattamente l'unica cosa importante che potevi fare per ottenere anche il beneficio funzionale che alla fine ti stai portando a casa quasi con l'impressione di non aver fatto niente per cercarlo. E invece no, hai fatto esattamente l'unica cosa che serviva, l'unica cosa importante, e qualcuno se n'è accorto e in questo senso lo stai portando a casa. Io su questo apro una piccolissima parentesi, immagino ci siano dirigenti di scuole secondarie di secondo grado, stiamo facendo un lavoro tra Bologna e Ferrara sull'alternanza scuola-lavoro e sui modelli di certificazione delle competenze in alternanza scuola-lavoro, esattamente orientato su questa linea, proprio cogliendo l'occasione dell'alternanza scuola-lavoro come un'occasione per sperimentare se stessi di fronte a sfide di realtà davanti alle quali se parrà de tua nobilitade e vediamo che cosa ti porti a casa. Quindi in qualche modo, diciamo così, il paradosso è proprio questo: la cultura serve non a qualcosa ma a qualcuno, alla persona che cresce, e paradossalmente, cercando prima questo, anche le cose di lassù, per carità, ma cercando prima questo che non un'utilità funzionale, aumentano moltissimo le probabilità che ci sia anche un'utilità funzionale, perché in qualsiasi contesto, in qualsiasi ambiente e in qualsiasi modo tu saprai sempre rigenerare dal tuo interno quello che hai appreso senza vincolarlo a un fine concreto, e rigenerandolo dal tuo interno lo renderai nuovo, flessibile, adeguato ai contesti della liquidità che cambia, tutto quello che siamo abituati a dirci, a sentirci dire, e che in qualche modo però richiede un'attenzione di tipo pedagogico per essere raccolto come sfida. Concludo con una riflessione che prendo dall'esperienza di Don Milani, che sarebbe un altro mondo che si apre, quindi mi limito davvero solo a una battuta. E la battuta a cui mi riferisco è quella che personalmente applico, per quello che mi riguarda, a uno dei rischi che sta correndo l'università. Poi non so se può essere utile anche per le scuole primarie, secondarie e così via. Nel 1962, quando in Italia fu istituita la scuola media unica, evidentemente in molti si aspettavano che Don Milani sarebbe stato entusiasta di questa grande innovazione. Per un cittadino italiano che leggeva nella Costituzione del 48 che l'istruzione era obbligatoria e gratuita per 8 anni e vedeva che lo Stato continuava a darla solo per 5, dire che finalmente, con calma, perché dal 48 al 62 diciamo le cose sono state fatte con calma finalmente nel 62 diveniva operativa anche la Costituzione della Repubblica Italiana, uno dice, beh, questa è una buona notizia, un lieto annuncio, diciamo così, per tutti. Dice, soprattutto per uno come Don Milani, che ha speso la vita per prendersi cura dell'educazione degli ultimi, di quelli diciamo che ad essa non avrebbero avuto accesso. Intervistato su questa, disse peste e corna di quella riforma per una ragione molto semplice. Per una ragione molto semplice. Perché nella riforma della scuola media, cioè la nuova scuola media unica, diciamo, introdotta dalla legge del 62, che è quella fondamentalmente che ho fatto io e quindi probabilmente anche qualcun altro dei presenti l'ha abitata da studente, insomma, dice rispetto alla scuola precedente è stata resa più semplice e meno seria. Più semplice e meno seria. Stiamo parlando della scuola media che abbiamo fatto noi, no? In cui io avevo 4 ripetenti in classe, ragazzoni con la barba così che mi mangiavano in testa e non solo, insomma, a questo io sto pensando, no? La resa meno seria, meno robusta, meno esigente dal punto di vista della qualità dell'offerta formativa. E dunque dice, una volta, ricordo lapidaria, cioè non ricordo nel senso che non ho sentito l'intervista, ma ricordo lapidaria nell'intervista questa frase, una volta che abbiamo dato la scuola media ai poveri, gliel'abbiamo resa inferiore, meno seria, meno profonda. Non è così che si trattano i poveri. I poveri hanno la dignità e il diritto di avere accesso alla più alta qualità della cultura, della formazione e dell'istruzione. Con le recenti riforme dell'università, la mia sensazione è che, saltando quel che c'è in mezzo, questo stesso problema, oggi come oggi, ci troviamo a viverlo all'università. Quando io dico alle ragazze, parlo al femminile soprattutto di questo, alle ragazze che per l'esame ci saranno 4 libri un po' robusti da leggere e studiare, queste inizialmente sono sconvolte all'idea. L'idea di leggersi per intero l'Emilio di Rousseau, 600 pagine, tutto per intero, è al di fuori della loro percezione di sostenibilità dello studio. E il mio appello a Don Milani, nella forma che vi ho raccontato, all'inizio del corso non basta a rassicurarle. Devo dire che di solito, facendo il cammino con calma, facendolo con un po' di pazienza, anche da parte mia, perché è chiaro, nella misura in cui decido che alzo tanto l'asticella, devo sull'altro lato essere molto disponibile ad accompagnare per tutto ciò che serve. Però il rischio di trovarmi con delle persone che escano dall'università senza avere la capacità di metabolizzare nella mente, di far propria una quantità significativa di diciamo costrutti culturali, collegarli assieme. Anche lì la richiesta, per favore, l'esame è un po' tosto, ce lo spezza a pezzettini, facciamo lo spezzatino dell'esame. No, lo spezzatino, ma mi piace, per carità, la mia cultura bolognese mi orienta anche verso lo spezzatino, però il problema è che se tu non provi mai a mantenere insieme nella tua mente elementi in qualche modo sufficientemente articolati, a chiederti come si collegano, uscirai di qui che non ne sarai capace. E io ne porterò la responsabilità. Io ne porterò la responsabilità. E quindi, almeno a questo, dico io, l'università ti deve servire. Ma non nel senso che tu sei al suo servizio. Nel senso che io sono al tuo servizio perché tu possa crescere. E nel momento in cui mi sono messo al tuo servizio perché tu possa crescere, non vedo l'ora di rendermi inutile, perché mi sono accorto che hai raggiunto quell'autonomia culturale che è il vero obiettivo del mio lavoro. In fondo l'insegnante, l'educatore, è qualcuno che lavora per rendersi inutile. Quindi serve per non servire più. E il momento in cui sei servito fino in fondo è il momento in cui ti accorgi che non servi più. E il renderti inutile, in fondo, è il fine del tuo lavoro. Con questo augurio vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie Andrea. Ieri sono stato anch'io un po' funzionalista, perché ho avuto lezione in due classi. E pensando all'incontro di oggi, ho provato a domandare ai miei studenti che cosa sia la cultura che serve. E li ho provocati con due fatti che sono alla cronaca di tutti i giorni, arrivano come notizia, anzitutto la complessa scena internazionale che vede questo conflitto spezzettato diventare sempre più globale, e tutto quello che riguarda il fine vita. E ho chiesto ai ragazzi di scrivere qualcosa e poi anche di dirmelo. Con mia grande sorpresa, quasi nessuno è riuscito ad arrivare ad una definizione di cultura. E molti di loro mi hanno detto: il mio terrore, prof, anzi don prof, come mi chiamano, è che quello che sto imparando a scuola non mi serva per capire, non per dopo, ma per capire il presente che sto vivendo. Io non ho elementi per affrontare queste due tematiche, la scena internazionale e ciò che riguarda la vita. Non ce li ho, non abbiamo gli strumenti. Mi ha colpito molto questo aspetto. Allora io ho passato loro una velina con una definizione di cultura che vorrei leggervi, perché poi possiamo partire con il nostro dialogo, il nostro dibattito. Sono andato in cerca in varie fonti di una definizione di cultura. Ho trovato questa che mi pare la più esaustiva. La cultura è un sistema di elementi in relazione tra loro e in continua evoluzione storica. Elementi interpretativi come la lingua, la letteratura, l'arte, lo spettacolo, la scienza, la filosofia, l'etica, la religione. Elementi sociali come i costumi, le leggi, le istituzioni. Elementi operativi come la scienza, l'economia, i manufatti. Vi si incarnano il senso generale della vita e le esperienze fondamentali della famiglia, dell'amicizia, della convivenza, del lavoro, della bellezza, della natura, della sofferenza, della morte, del divino. Ogni popolo vi trova la sua identità, la sua anima collettiva, il suo patrimonio prezioso accumulato di generazione in generazione. Due grandi studiosi e hanno scritto un testo ormai risalente, pubblicato in Italia nell'82, Glucon e Kreber, hanno parlato di 164 definizioni di cultura. Allora, oggi penso sarebbero molte di più. Io sono andato a cercarla tanto lontano, sapete dove ho trovato questa? Nel catechismo della Chiesa Cattolica. Sono andato in cerca dappertutto, nella biblioteca della mia scuola, e l'ho trovata vicino. Non so se può essere un punto di partenza per discutere insieme su che cos'è cultura e su che qual è la cultura che, tra virgolette, serve. Buongiorno intanto, Bello Rocco, dirigente scolastico di Padova. Rispetto alla relazione stimolante, allora siamo d'accordo che sul discorso dell'inutilità è il concetto che mi ha stimolato e che non mi trova totalmente d'accordo. Allora, la cultura, siamo d'accordo sull'idea della cultura come fine e non come mezzo, cioè non come fine ma come mezzo di umanizzazione. Quando noi trasformiamo la cultura in fine, la tradiamo, no? La cultura è un mezzo di umanizzazione, di realizzazione della persona, no? Uno strumento attraverso cui la persona si realizza. Il problema, dal mio punto di vista, non è nella gratuità e nella inutilità della cultura, ma nella trasmissione della cultura. Allora, provo a dire una cosa che secondo me Don Milani aveva ben chiara. Perché la cultura sia viva, si rigeneri, secondo il concetto che lei ha ben espresso, serve un rapporto con l'esperienza. E finché noi non abbiamo, non facciamo in modo che la cultura entri in rapporto, in relazione con l'esperienza dei ragazzi, questa cultura non serve. Resta una cultura asettica, inutile, e resta un deposito in sostanza. Quindi il problema, dal mio punto di vista, non è tanto nella utilità o inutilità. Ricordo quei bellissimi passaggi di Lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani, quando dice, fa l'esempio delle cose che richiedete voi all'esame di terza media, i castelli della Loira, no? I vostri studenti conoscevano a memoria la parte relativa ai castelli della Loira, no? E questi l'avevano imparata a memoria e sapevano solo quella. Ma se fossero andati all'estero e si fossero trovati in una situazione problematica, non avrebbero saputo come orientarsi. Mentre i miei ragazzi, dicevano, non sapevano i castelli della Loira, ma sapevano chiedere indicazioni, informazioni e arrangiarsi nella vita di tutti i giorni. Quindi Don Milani non demonizzava la cultura che serve, diceva semplicemente che questa cultura non può restare separata, deve entrare in relazione con l'esperienza dei ragazzi. E ad esempio anche nelle nostre scuole secondarie superiori, ma era vero anche alla scuola media, se i docenti porgono la cultura solo come trasmissione e non sanno toccare il cuore dei ragazzi, quindi far vedere che c'è un rapporto fra quello che studiano e la loro vita, la cultura è inutile e i ragazzi non si innamorano di quello che studiano. Quindi, secondo me, il problema non è tanto nella utilità o inutilità o gratuità del fine, ma quello della separatezza della cultura rispetto all'esperienza. Questo è il primo tema. Quindi la difficoltà di riuscire a rendere la cultura viva perché tocca le corde vitali, e l'altro problema è quello del processo. Io non posso fare cultura se la trasmetto, come un pacco. Io faccio cultura nel momento in cui attivo dei processi attraverso i quali i ragazzi, gli studenti, i bambini diventano attivi, la costruiscono. Ed era il processo che faceva Don Milani, l'arte dello scrivere, meravigliosa, che lui racconta come i ragazzi hanno scritto lettere a una professoressa. Loro erano i protagonisti, loro scrivevano i fogliettini, loro li dividevano in capitoli, c'era un processo attivo, e se non inneschiamo questi processi la cultura è inutile. Interveniamo a ruota, non ci fermiamo, è un dibattito, quindi non è un qualcosa di formale che poi richiede una risposta da parte del relatore, è un dialogo tra di noi, proprio per iniziare un processo. C'è un dirigente, Bene. Qui. Ah. Annalita Mancarella dell'Istituto Vendramini. Allora, riprendo un po' quest'ultima riflessione ed effettivamente se noi pensiamo alla cultura non possiamo pensare come ad un sistema chiuso che non sia in grado di autoregenerarsi. È evidente che la cultura è qualcosa che cresce, qualcosa che cambia, che è in relazione costante con tutto ciò che costituisce il contesto. Però quando noi parliamo di competenze dei nostri alunni, dobbiamo tener conto che se da una parte c'è il concetto di funzionalismo, che sicuramente ha un suo senso, anche io credo che possa avere un suo senso, specialmente in una realtà come questa, noi sappiamo che dobbiamo costruire dei cittadini, persone che vivano in un mondo di flessibilità, che sappiano viverlo, che sappiano vivere anche la liquidità a cui si faceva riferimento. Quindi di sicuro la necessità di costruire delle competenze che possano poi entrare nel sistema formativo del soggetto e poter essere rese spendibili in qualsiasi contesto di realtà. Però è pur vero che, come d'altra parte ci dicono anche le raccomandazioni europee, esistono anche le competenze personali. Ecco, secondo me è fondamentale anche che all'interno del concetto di competenza teniamo presenti questi due elementi che sono fortemente interagenti tra di loro. Da una parte ci sono le competenze professionali che sono essenziali, però dall'altra si devono ben coniugare anche con le competenze personali dell'imparare all'imparare, dell'essere in grado di riconoscere i sistemi culturali e sapere interagire. E poi è importante anche che all'interno della scuola si comprenda come tutto ciò debba essere inserito in un paradigma di responsabilità anche dello studente, cioè lo studente deve essere capace sempre di potersi orientare in un sistema autoregolativo e anche autovalutativo, che allora in questo caso forse non corriamo forse tanto più il rischio di trasmettere un pacchetto culturale nel momento in cui mettiamo l'allievo nella condizione di autovalutare il suo processo di apprendimento, di poterci dire quali sono le cose che gli piacciono, di cogliere gli aspetti vocazionali e di comprendere anche quali sono le sue criticità. Ecco, allora proprio la necessità di una competenza che non può rinunciare ad avere anche una componente funzionalistica, perché sappiamo che poi i nostri studenti devono vivere in questa realtà, ma che li metta anche nella condizione anche di essere responsabili di quello che fanno attraverso proprio processi autovalutativi, autoregolativi. Ecco allora che l'insegnante si rende progressivamente inutile, come diceva giustamente Rousseau. Però nello stesso tempo dobbiamo pensare che abbiamo di fronte un soggetto attivo, responsabile, costruttivo, creativo, che può fare interagire e mettere appunto in un sistema correlato tutto ciò che la scuola gli offre. Sono Callegaro, responsabile delle risorse umane di ENAIP. Ringrazio per le suggestioni del professore di questa mattina, perché credo ci richiami alcuni paradigmi fondamentali del nostro mestiere, fondamentalmente. Ecco, io credo che il tema delle competenze è il tema che ci attiene, quantomeno nel ruolo che abbiamo di dirigere i nostri staff, i nostri team che lavorano con i nostri ragazzi per il futuro. Il tema delle competenze ci chiama a rispondere cosa il mercato e la società ci chiede, perché i nostri ragazzi sono di questa società prima di tutto e sono per il lavoro, perché il ruolo fondamentale è sviluppo sociale, economico, che passa per il bene del lavoro, per il valore del lavoro, e quindi noi siamo chiamati senza dubbio a interrogarci nella fase formativa di come noi siamo in grado a renderli efficaci nella socialità, nelle competenze sociali prima di tutto, per essere cittadini attivi, perché se sei un buon cittadino sarai un buon lavoratore. La prova del 9 che noi abbiamo come ente di formazione, perché ci occupiamo a pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, è quanto le imprese ci dicono che sono efficaci i nostri ragazzi, ma non solo nel presentare un servizio di catering, essere bravi ad approvvigionare una cucina, essere degli chef o a leggere un programma meccanico per dirigere un centro di lavoro anche con un linguaggio sempre più non in lingua italiana ma in inglese. Prima di tutto ci chiedono se sono dei cittadini positivi, se hanno saputo, se sanno vivere abilità sociali, di passione, perché oggi il lavoro chiede le competenze, ma chiede la passione, quindi ci spingiamo più sul talento. Il talento è la competenza più la passione e l'impegno, il famoso engagement che adesso viene ormai sempre citato nel linguaggio inglese, che noi ovviamente siamo chiamati a esserne parte. E quindi direi puntiamo al talento, che è competenza, ma è di più, è il valore delle relazioni che noi siamo in grado di far vivere ai nostri ragazzi attraverso i nostri formatori e insegnanti che dirigiamo. Grazie. Buona giornata, Massimo Bertazzo, dirigente scolastico a Conselve. Mi collego con quello che è appena stato detto e vorrei sottolineare una cosa. Quando si parla di lavoro e di cultura, secondo me è molto importante sottolineare che il lavoro è cultura, non è solo cultura, ma è anche cultura, e a volte stona un po' la contrapposizione tra cultura e lavoro, ma lavori anche concreti, perché anche l'agricoltore, il muratore, in ogni lavoro c'è una parte che è cultura ed è importante riconoscere. Sì, buongiorno. Gabriele Donola, preside di Mestrino e anche qui di Presseo, quindi vi do il benvenuto perché mi sono ricordato che sarei un fiato, come si dice, paron de casa, ma in senso molto lato. E una volta ho scritto, noi facciamo ancora 3-4 volte all'anno il bollettino informativo, no? E in epoca di internet però il pezzo di carta è sempre, no, come la difesa che abbiamo ricevuto. E una volta ho scritto: e a scuola se come il mascio, non si butta via niente. Eh sì. E mi era venuto in mente perché pensavo a questa difficoltà che abbiamo soprattutto nella scuola media, inferiore e superiore. Abbiamo questa difficoltà di passare al paradigma delle competenze, no? E vedo ancora tanto, come dire, tanta istruzione fatta come trasmissione del sapere e come riempimento del vaso. E vedo tanti ragazzini che dicono: perché devo imparare queste cose? E allora mi ricordo quello che ci disse una volta in un convegno di Macondo un prete che ha avuto anche un certo ruolo di formatore pedagogista qui nel nostro territorio, che è Don Giuseppe Stoppiglia, che Dio ce lo conservi, perché insomma ha avuto anche qualche problema di salute. E insomma diceva proprio questo, no? Che quando lui studiava in seminario, a un certo momento è andato dal rettore e gli diceva: questa cosa qua cosa mi serve? Non preoccuparti, che al momento giusto vedrai che ti servirà. E io ho detto: la scuola è come smascio, proprio non si butta via niente, perché caro ragazzo di 12-13 anni, in un come si dice, giorno inaspettato, di un tempo inaspettato, di un momento inaspettato, ti verrà in mente che quella volta quel tuo prof imbecillito ti ha detto una cosa che adesso ti torna utile, ma ti torna utile non solo, appunto. Cioè io dico, perché tante volte, no, si va oltre l'intenzionalità. Noi possiamo metterci tutte le intenzioni, ma la scuola è fatta fondamentalmente di relazione personale. E dove soffia lo spirito, per dire una cosa fin troppo grande come riferimento, ma quando si semina, i terreni sono più o meno fertili, sono di varia natura e non sappiamo mai quando la pianta. E quindi la scuola ha questo grande valore, d'accordo? È certo che noi dobbiamo poi... E a proposito di esperienza, mi viene in mente che tanta cultura e tanto saper essere passa proprio attraverso, per fortuna, le esperienze che facciamo fare ai nostri ragazzi. Ve ne voglio dire una perché mi ha aperto il cuore. Sto facendo con fatica un'ora di lezione, vado a presenziare almeno un'ora alle maestre che sono in anno di prova, anche qualche maestro quest'anno. E sono 20 in due istituti. Assistendo a una lezione, sotto forma di laboratorio, in una seconda o terza elementare, c'è un bambino con handicap grave, è autistico, ma di quelli proprio crudi, tosti. E a un certo momento lui è entrato a lezione inoltrata, si è avvicinato al gruppo al cui sarebbe stato assegnato, rimasto lì 2 minuti, 3 di più non ha potuto, poi cominciato sotto la sorveglianza dell'assistenza sociosanitaria, è cominciato a girare per la classe, guardare fuori, fare qualche verso, qualche salto, poi si è avvicinato a un altro gruppetto che stava per lavorando e a vedere cosa stavano facendo. C'è una bambina di 8 anni, gli ha messo una mano sulla spalla, gli ha fatto un sorriso con un senso di rassicurazione, che era qualcosa di incredibile. Io in quel sorriso ho visto il sorriso che questa bambina, quando sarà donna, farà al suo fidanzato, il sorriso che farà a suo figlio, capite? Di fronte a quel tocco e a quel sorriso, anche Gesù risorto avrebbe detto tangi me, invece che l'oli me tangere. E queste esperienze che noi abbiamo creato nella scuola italiana, capito? Queste sono esperienze che vanno oltre la nostra intenzionalità. E questo è il valore che abbiamo. Lo condivido. È un pensiero pasquale. Purtroppo me ne dimentico e quindi anch'io poi cado nelle mie fragilità e tutto, ma questo volevo condividerlo. Beh, il mio è breve. Come Don Lorenzo, questa mattina avevo il momento del buongiorno. Per chi conosce lo spirito salesiano sa che è quel momento di comunicazione settimanale che noi teniamo con i ragazzi, dura poco, un quarto d'ora. Ho detto ragazzi, avevo quelli del liceo, tra poco andrò a Praglia e la tematica sarà questa, quella di chiederci qual è la cultura che serve. Voi cosa potete dirmi, suggerirmi? Perché senz'altro mi chiederanno cosa pensano i ragazzi. E allora lì si sono messi un po' a discutere, avevamo solo 10 minuti. Sono uscite tante cose, ma io ho raccolto e vorrei consegnarla qui perché mi ha dato modo di pensare mentre venivo e penso che farà pensare anche voi. Quello che mi ha risposto Klotz. Klotz è un ragazzo di quinta scientifico, ha risposto così, dopo un po'. La cultura che ci serve è quella che aggancia i problemi della nostra vita, della nostra esistenza. E quei problemi che sono dentro di noi, profondi. E dico, puoi dirmene uno? E mi ha risposto, l'amore. È partito un battimano da parte dei ragazzi. Ecco, può darsi che abbia sottolineato l'amore anche per l'età in cui lui si trova. Ma chissà cosa c'era dentro questo amore. Però la prima parte, ecco, quella capacità di cogliere, di agganciare l'esistenza. Ma pensavo io, noi dobbiamo soltanto agganciare l'esistenza dei ragazzi, ma la cultura deve anche far sbocciare l'esistenza, cioè il movimento deve essere anche inverso, perché bisogna proprio bussare alla porta del cuore, aprire l'intelligenza, aiutarli ad aprire le finestre e guardare. Ecco, questo penso sia. Buongiorno, sono presidente della scuola edile di Padova. Sono un'imprenditrice. Ho avuto varie esperienze nella formazione e quello che mi è piaciuto molto quello che è stato detto finora. Se posso, vorrei portare un contributo proprio come imprenditrice. Ho due attività, ho un'attività dove nella sanità, dove ho 100 collaboratori circa, 99, 98 sono, quasi tutte donne, e poi ho un'impresa edile dove ho una trentina di persone che girano attorno a noi, anche di più. Quello che io riscontro e che mi impegno molto nella scuola edile è l'immaturità affettiva dei nostri ragazzi. Noi, secondo me, siamo bravi a livello scolastico, prepariamo i ragazzi bene, però facciamo arrivare nel mondo del lavoro delle persone povere affettivamente, deboli spiritualmente. Appena si trovano ad affrontare qualcosa di diverso dalla nozione scolastica, vanno in crisi. Io con le mie ragazze alla casa di riposo sto facendo scuola tutti i giorni e non è il mio mestiere quello della sanità, però i mestieri si imparano. L'importante è creare uno stato d'animo nei ragazzi, negli studenti, di interesse, di voglia di cultura, di voglia di crescere, di voglia di aprire il cuore. Allora mi arrivano queste ragazze infermiere e OSS preparatissime e mamma mia, sono così aride dentro al cuore. Devo fare un lavoro immane di formazione per renderle empatiche al paziente. È questo che manca. Spiritualmente, quanta fatica, mamma mia. Faccio un ritiro a Pasqua e a Natale come lo facevo alla materna, e Andrea Bergamo lo sa bene, perché è una fatica. Dopo alla fine piangono, alla fine sono contenti, ma vedi proprio che non hanno la cultura del prepararsi spiritualmente alla vita. E Rosangela Roson, ora FISM Padova e per tanti secoli scuola statale e scuola media. Ecco, intervengo proprio perché ascoltando tutto quello che ho ascoltato questa mattina, pensando a Don Milani e pensando anche ai contatti che adesso anche come Federazione di Scuole dell'Infanzia abbiamo quotidianamente con insegnanti, genitori, prima che averli quei ragazzi e quei bambini, penso a una cosa di questo tipo. Quello che nel tempo noi ci siamo lasciati scappare di mano è l'attenzione alla persona. Tutte queste, noi abbiamo pensato per tanto tempo a dare spazio alle facoltà di tipo tecnico, questo, quest'altro, che ci avrebbero consentito un'immissione nel mondo del lavoro, pensavamo noi, più facile, più veloce, eccetera. In realtà poi non è stato nemmeno così. Ma quello che ci siamo persi di strada è la globalità della persona alla quale, io credo, deve tendere la nostra scuola nel voler far cultura, una cultura buona che parta dal vissuto, si è detto giustamente, ma che possa anche ricadere in quella che è la realtà in cui poi si ritrova, ma che, perché questo sia possibile, deve puntare alla persona. Noi scuola, e in questo non siamo e non dobbiamo essere soli, la realtà che ci circondano, perché prima, come diceva Don Lorenzo, con quella definizione di cultura che ha pescato, abbiamo ben capito che la cultura è fatta da tanti e da tante cose. Ma se ci dimentichiamo la persona, allora continuiamo a avere tecniche, test di valutazione, mille cose che non ci porteranno forse a superare le fragilità di cui sentivo nell'ultimo intervento e che anche io noto sempre più di tu, più nei nostri giovani. Manca la motivazione perché sono fragili e si perdono in questo, e molto spesso manca anche in noi educatori. Buongiorno, Alberto Angelini, liceo Fermi di Padova. Allora, io gioco facile, no? Perché ho i ragazzi dell'eccellenza, si dice, ma questi ragazzi dell'eccellenza sono allo stesso modo sofferenti per la loro difficoltà a mettere insieme le cose. Allora, o la cultura è sensibilità e si trasforma in sensibilità o non è niente. Sì, Giovanni Polato, prima scuola statale, adesso seminario minore di Rubano. E quel contributo che potrei dare in questo momento è, visto il punto a cui è arrivata il dibattito, è l'attenzione al vissuto dei ragazzi. di oggi, perché mi sono reso conto col tempo che hanno bisogno di essere ascoltati, sentiti, e anche essi sono portatori di cultura, anche quando non hanno ancora cominciato le scuole. Sono portatori di cultura per noi che siamo docenti, che siamo insegnanti, che siamo educatori. È la fonte principale probabilmente. Se in essi cerchiamo qualcosa, sappiamo che possono darci qualcosa, siamo attenti a quella sorta di mistero che viene da questi loro vissuti, che a volte sono molto sofferti e a volte, anche quando non sono sofferti, sono ricchi. Penso che rinforziamo in questo modo il nostro senso, il significato che diamo alla parola cultura, e poniamo nella giusta diciamo luce l'utilità o la non utilità della cultura. Grazie. Buongiorno. Io questa mattina sono insegnante di... Mi chiamo Rossandra, accompagno mio marito, quindi ero indecisa se fare l'intervento perché mi sento un po' un ospite, però sono insegnante di scuola dell'infanzia statale e mi occupo e sono un po' appassionata in questi ultimi 3-4 anni. Mi sono formata su un progetto che fa sviluppare proprio le abilità personali all'interno delle classi, nella scuola, e penso che ci sia molto bisogno, perché le cose più emergenti, anche come mamma, ho due figlie alle superiori, nei consigli di classe la prima cosa che emerge è la difficoltà di gestione della classe, la difficoltà di relazione. Quindi penso sia un problema emergente questo, aiutare i ragazzi a sviluppare quello che loro hanno dentro, ma che magari non sempre riescono a tirar fuori da loro stessi, sviluppare le abilità personali, le abilità umane. E poi aggiungo una cosa, ho apprezzato molto la sua relazione, e penso però che in Italia ci sia, nella scuola italiana ci sia una cosa da focalizzare: il metodo. Cioè abbiamo dei programmi molto vasti, abbiamo programmi sostanziosi, però il metodo è ancora un metodo che si basa molto sul riempire il vaso. Io sono stata ieri sera al consiglio di classe di mio figlio, in quinta superiore, si stanno preparando alla maturità, no? E un programma di storia tutto a memoria, le date, sono super pressati. Allora, io dico, non voglio dire che si deve togliere la difficoltà. Un ragazzo deve affrontare anche la difficoltà, la fatica, però penso che bisogna sviluppare molto di più la motivazione, come diceva lei, cioè se un ragazzo sa perché lo fa, o almeno lo intuisce, magari non lo sa profondamente, ma lo intuisce, la motivazione, la passione. Tirar fuori la passione dai ragazzi, ne hanno molte, però. E vorrei aggiungere un termine a questi due: il piacere. Cioè il piacere di imparare, il piacere di conoscere, il piacere di anche tirar fuori dal loro fare, non solo dall'ascoltare, dall'imparare. E mi riferivo, ultima cosa, al metodo, perché mi viene da dire, si richiede al ragazzo, no, per la maturità, tutto un globale, il globale del programma di storia, il globale della filosofia, quando però abbiamo insegnato nel particolare. Cioè noi abbiamo insegnato nel particolare, ma chiediamo a loro il globale. E quindi nella metodologia, secondo me, abbiamo tanto da fare nella scuola italiana, sia come tecnica che come anche ispirazione, perché... aggiungo l'ultima cosa, abbiamo organizzato un convegno l'anno scorso, io sono andata un po' a vedermi le indagini OXA, PASEI, e l'anno scorso indagavano proprio sul benessere. L'Italia risultava al terzultimo posto. Cioè se noi non facciamo star bene i ragazzi a scuola, sono la nostra futura società, non sarà una società che sta bene, e se stanno bene attivano anche idee, se non stanno bene non attivano idee. Grazie. Sono Umberto Boschetto, insegno storia delle religioni e storia all'ENEIP, Centro Servizi Formativi di Padova. Quello che volevo aggiungere io, e ringrazio tutti gli interventi precedenti, è questo. Pensando anche alla figura di Don Milani e a quanto ci ha detto il professore. La continua tensione, intesa come un atteggiamento costante, che deve avere l'insegnante tra l'ambito educativo e l'ambito specifico dell'insegnamento e della formazione, tenendo presente che ha dinanzi dei giovani, no? Che hanno una personalità in costruzione, in divenire, con le loro fragilità, ma anche con le adeguate distinzioni che dovremmo saper cogliere. I cosiddetti, come dire, ragazzi eccellenti, no? Ma anche quelli magari che apparentemente sono più fragili possono avere le loro distinzioni. E allora le riflessioni mi portano anche a dire, ripensando a Don Lorenzo Milani, che c'è anche un contesto più ampio, ed è quello della politica, inteso come quella passione formidabile che appartiene ad ogni uomo e che ogni uomo desidera per sé e per gli altri: la dignità, il rispetto e una vita buona, un'adeguata, come dire, un adeguato sviluppo della sua personalità come cittadino e anche come, oserei dire, credente. Detto questo, allora, ci troviamo sempre in una situazione, anche noi, di contingenza, ma nel contempo anche di sviluppo. Mi spiego. Quando io lascerò i miei ragazzi, mi dovrò congedare da loro, ma io non voglio che loro, come dire, mi ricordino come una persona non raggiungibile, ma come un amico, anche un genitore sociale ovviamente, che li ha aiutati a fare un percorso ad arrivare alla loro autonomia. Ecco, questo vorrei che fosse anche il messaggio. Se Don Lorenzo Milani, che si era ubriacato di Cristo, è stato testimone apostolo con i suoi ragazzi, noi, come dire, lasciare una traccia che anche loro non si debbano sentire soli. C'è qualcuno nel tempo, nello spazio, che ha creduto in loro e che è vicino a loro. Grazie. Sì, io sono la dirigente dell'Istituto Duca degli Abruzzi di Padova e dicevo prima, l'Istituto Duca degli Abruzzi è nato proprio presso l'Abbazia di Praglia nel 1863. 11 anni dopo è stato portato nella sua sede attuale, quindi c'è un legame anche, come dire, tra la mia scuola e l'abbazia. E io ringrazio per questa mattinata meravigliosa che ci ha tolto dai nostri impegni, perché effettivamente io, ma anche i miei colleghi, siamo sempre di corsa, abbiamo poco tempo di pensare, di riflettere, di fermarci, ecco, a valutare un po' quelli che sono, diciamo, le situazioni importanti della scuola, i nostri alunni, i loro percorsi, i loro vissuti, i loro problemi. E condivido tutto quello che è stato detto. Io aggiungerei di mio che dobbiamo anche pensare ai valori, perché effettivamente la scuola vive, la mia è una scuola media superiore, vive di contenuti, di programmi. Va benissimo l'alternanza scuola-lavoro, però ecco, il sapere non deve essere, non bisogna dare eccessivamente importanza al mondo del lavoro, il sapere non deve essere vissuto, la cultura, come un prodotto commerciale. E guardiamo ai valori, perché la nostra società non ne offre poi tanti e credo che anche gli esempi educhino molto. Quindi io dico sempre ai miei insegnanti, più che fare tante prediche, provate con l'esempio a mostrare ai ragazzi come devono crescere. Grazie. E Luciano Gatti, dirigente della scuola professionale di EFE. Beh, intanto ringrazio anch'io del momento di oggi, dell'opportunità che abbiamo di essere insieme e di fare queste riflessioni. Volevo dare un piccolo contributo, un po' ripensando alla situazione che stiamo vivendo. A me tornava in mente un'espressione, un giudizio che in questo tempo io ho tenuto molto vivo, quando Papa Francesco diceva: oggi viviamo un'epoca di cambiamento, oggi non viviamo un'epoca di cambiamento, quanto un cambiamento d'epoca. cioè è un cambiamento profondo quello che sta avvenendo. E mi riallaccio proprio all'ultimo intervento che parlava di valori. Questo cambiamento d'epoca è un cambiamento per cui noi vediamo che sono venuti meno tutti quei valori che fino, possiamo dire, fino ad oggi avevano cercato di dare fondamento al nostro vivere civile, sociale. E in una lettura che faceva molto in profonda Benedetto XVI, diceva che l'illuminismo aveva tentato un'operazione di individuare alcuni valori che potessero, al di là dei riferimenti religiosi, poter dare fondamento a una società. Questa cosa qui ha funzionato fino a che in qualche modo era rimasta viva l'origine da cui questi valori erano stati appunto originati, che era l'esperienza cristiana, i valori della persona, della libertà, il valore della eccetera. Oggi assistiamo a un crollo di tutto questo, ma allora da dove possiamo ripartire? A me viene da dire due cose. Primo, innanzitutto, guardare in faccia la realtà e porci in maniera seria con questa domanda. Stanno venendo cosa che sta capitando? Sta capitando esattamente questo. Sta venendo meno tutto un certo tipo di riferimento valoriale. E allora da dove si può ripartire? Si può ripartire provando a guardare l'uomo e a guardare quelle esigenze profonde che lo caratterizzano, che caratterizzano il proprio essere, e da lì ripartire dentro una, come dire, sì, un'attenzione, uno sguardo, il valore dell'esperienza, il valore della persona, eccetera. Ecco, a me credo che sia importante tenere presente questo, altrimenti credo che non possiamo resistere alla sfida che questo tempo e le grosse contraddizioni in cui stiamo vivendo, insomma, ci stanno ponendo. Ecco, vi ringrazio. Adesso tocca a me, ma quasi quasi parlo volentieri, devo dire, perché è molto interessante quello che stiamo dicendo. A me non piace andare ai convegni e dover parlare quasi come se fosse sempre da insegnare qualche cosa. Però ho ascoltato molto volentieri, veramente, e mi sembra che abbiamo toccato punti veramente difficili da risolvere. Innanzitutto condivido che stiamo vivendo un momento di crisi che definirei spirituale innanzitutto, prima che economica e prima che morale. Cioè noi non abbiamo più un riferimento a dimensioni che sono diverse da quelle che ci possono essere utili. Il professor Magatti in varie occasioni, ma hanno ripreso questo pensiero anche altri insegnanti, no? Definisce la nostra crisi economica innanzitutto come una crisi spirituale, dovuta al fatto che i nostri giovani, i nostri ragazzi, non hanno più degli obiettivi per la loro vita, un fine, perché essere al mondo, perché, che cosa si deve fare con la propria vita. A differenza dell'esperienza da quale tutti noi veniamo, soprattutto quelli della mia età, forse anche un po' più anziani, ma non soltanto, quando si lavorava perché avevamo delle cose necessarie, la libertà dal punto di vista politico anche, che noi cercavamo, la libertà dalla povertà, che noi dovevamo in qualche modo superare, per cui le nostre famiglie, i nostri genitori, davano al loro vivere uno scopo, quello di tenere in piedi la loro famiglia, di trovare una casa, di trovare un lavoro, di dare istruzione, quegli elementi che abbiamo acquisito, per fortuna, e che hanno segnalato una maturazione del nostro vivere sociale. Oggi i nostri ragazzi per che cosa vivono? Ma più che una crisi dei ragazzi, è una crisi nostra. E noi adesso dove vogliamo arrivare? Quali sono gli obiettivi, anche culturali, verso i quali stiamo camminando? Stiamo conservando più che andando avanti. Stiamo difendendo, no, i livelli ai quali noi siamo arrivati. E la crisi spirituale vuol dire alla fine che noi stessi, adulti, stiamo costruendo una società soprattutto adolescenziale, per cui non diamo una prospettiva ai nostri adolescenti, perché noi siamo diventati, stiamo rientrando, no, a preoccuparci di che cosa faremo il sabato e la domenica, di dove andremo in vacanza. Insegniamo ai nostri figli a andare a fare qualche lavoretto, ma per comprarsi il motorino o per andare al mare durante l'estate. Cioè, tutto orientato sostanzialmente su se stessi. Mancano gli obiettivi spirituali, il senso che noi diamo alla vita. Perché già ci è stato conquistato, adesso lo stiamo consumando e stiamo nutrendoci di quello. Ma quello ci rende più tristi e più poveri. Per cui condivido questa, sono state usate delle parole molto, molto belle, no? Questa sofferenza, angoscia, debolezza, fragilità dei giovani, perché mettono in evidenza la debolezza, la fragilità dei pensieri nostri e dei sentimenti nostri di adulti, cioè della nostra società. E questo mi sembra la condizione nella quale noi ci dobbiamo muovere. E mi sembrerebbe che in questa condizione, e anche per questo sono contento, perché riconosco dagli interventi e anche dal contesto che voi siete cristiani, vi riconoscete tutti come cristiani. E voi siete i cristiani, cioè voi siete la Chiesa mandata nel contesto educativo scolastico. Ed era importante, ed è importante, che ogni tanto ci troviamo, non perché qualcuno debba insegnare, ma perché state vivendo, state facendo queste esperienze, e forse voi siete i veri maestri, cioè quelli che possono dire che cosa sta succedendo. Voi siete mandati, c'è un mandato, non di carattere giuridico, no? Un mandato di carattere spirituale, direi quasi religioso in questo senso, no? Per cui voi cristiani battezzati siete mandati a svolgere la vostra missione dentro un contesto giovanile che si ritrova nell'ambito scolastico, che ha però tutti questi agganci con la vita. Ora diteci come possiamo valorizzare la vostra esperienza di missionari dentro il mondo della scuola. Che cosa avete da insegnare al resto della comunità? Innanzitutto la comunità ecclesiale, ma perché? Per avere forza e per poter svolgere un servizio nei confronti di tutto il nostro territorio. Ecco, che cosa avete da dire? E mi chiedo se questo contesto, Don Lorenzo, non prefiguri proprio l'idea di un laboratorio dove noi cristiani, con spirito di servizio, non certamente per conquistare spazi di potere o di visibilità, ma con spirito di servizio cerchiamo di capire quello che la vita dei nostri ragazzi, dei ragazzi che incontriamo, ci sta dicendo. Le loro sofferenze che cosa richiedono? La loro incapacità di amare, bellissima questa espressione qui, perché è vero, uno decide in base all'amore, anche dove andare e che cosa studiare, dove fare l'università. E questa quindi è una dimensione che non possiamo trascurare, ma noi stessi facciamo così, no? E mi chiedo se davvero non ci siano spazi oggi per creare, proprio a partire dalla vostra esperienza, un laboratorio in cui ci domandiamo quale servizio, quale contributo possiamo dare. Ditelo al resto della Chiesa, di cui io, ma con l'aiuto di Don Lorenzo, posso farmi portatore, in modo che non siate isolati. Non esiste la scuola da sola, perché poi i vostri ragazzi sono educati dalle loro famiglie e dalle loro compagnie e da internet, e il mondo è in questo cambiamento, e quindi c'è un'urgenza. Voi cristiani mandati con una missione, ripeto, non di potere, spirituale, di servizio, restituite quello che state raccogliendo in questo vostro servizio, per avere sostegno, per avere incoraggiamento. Questo, ecco, io ho vissuto così questa mattinata, no? Davvero, mi si è aperta come l'immagine di uno spazio prezioso che dobbiamo saper valorizzare e ascoltare. Pensando a Don Milani, io mi ero preparato una bella lettera perché mi piace tantissimo di Don Milani, quella scritta a Serafino, se avete occasione leggetelo. Ho letto che dovrebbero pubblicare l'opera Omnia, o forse hanno già dato la pubblicazione, ma in queste domeniche comunque, no? È la lettera a Serafino ed è la storia, no, di un povero ragazzo che proveniva dalla povertà che è diventato medico. E in occasione del matrimonio Don Lorenzo scrive alla moglie, bellissima questa lettera, perché dà l'idea di quali debbano essere i cammini e i percorsi educativi. Però non c'è tempo, se avete occasione potete guardarlo. Però io mi chiedo se, restando dentro il pensiero di Don Milani e a questa lettera che ho in mente, non ci dobbiamo chiedere effettivamente la nostra vocazione di insegnanti, di educatori. A che cosa sta rispondendo? A quali criteri? Cioè, che educatori siamo noi? Non per quello che diciamo, ma per la testimonianza che stiamo dando. E quindi la vocazione, noi abbiamo studiato, qualcuno ha dato i propri contributi anche economici perché noi potessimo studiare, e adesso di quello che la società ha dato tramite le nostre famiglie, ma tramite tutta l'organizzazione di lavoro e via dicendo, che cosa noi ne abbiamo fatto? Come stiamo vivendo il nostro essere insegnanti o educatori? Come lo stiamo vivendo nei termini vocazionali che l'hanno originato? A me Don Milani, ad esempio, viene in mente questo: dalla parte degli ultimi. Come riusciamo oggi ad essere dalla parte degli ultimi? Non soltanto nell'organizzarci, ma anche nel pensiero. Quando si parla di competenze e di eccellenze, è perché siamo dalla parte degli ultimi e vogliamo far camminare tutti verso il meglio, senza offrire a chi è più debole le cose più scarse. Questa qui è una grande indicazione di Don Lorenzo, così come anche qualcuno di voi ha ricordato, no, l'attenzione alla persona nel suo insieme, per cui Don Lorenzo lavorava, insegnava per 18 ore al giorno, e tutti si scandalizzavano perché non c'era la ricreazione oppure non c'era la festa e via dicendo. Ecco, perché educava tutta la persona in tutti gli aspetti, anche quelli affettivi, no? E anche quelli di apertura nei confronti del mondo, perché questi viaggi che favoriva ovunque, allora, la lettura dei giornali, e vuol dire dell'educazione al sentirsi parte di un paese, che veniva tradotto proprio nella quotidianità, con l'esperienza quotidiana. Ecco, io mi chiedo se noi cristiani, mandati ad educare, e come si è detto, cioè a far emergere il meglio che c'è dentro i ragazzi, come stiamo vivendo questa nostra vocazione e la missione che ci è stata data, scusate ma ne sono proprio convinto, dalla Chiesa. Voi siete i cristiani, noi non dobbiamo tanto sostenere o difendere le scuole cattoliche, è una presenza di pluralismo di cui noi abbiamo bisogno, che fa bene. Non c'è una cosa. Però noi dobbiamo difendere l'educazione di tutti. E qualcuno magari non vive in una scuola cattolica, ma vive nella scuola, a contatto con i ragazzi. Quindi abbiamo tanto da poter fare e dobbiamo sentirci mandati. E in questo senso vi ringrazio anche per il servizio che state facendo. i preti li mando a guidare delle comunità, voi insegnanti vi mando a educare in tutte le scuole e in tutti i contesti, e spero che quelle cattoliche abbiano una possibilità in più di educare, proprio perché ci sono dei contesti dove questo è reso un po' più condiviso, ecco, questi obiettivi possono essere più condivisi. Grazie Don Claudio. C'è un'altra particolarità che mi sono dimenticato di Don Milani, perché viene sempre indicato come insegnante, mai come prete, ma Don Milani faceva tutto perché era credente e ha saputo fare le scelte che ha fatto in forza della sua fede. Questo, siccome spesso è stato usato, no, in certi contesti anche politici, culturali e via dicendo, vorrei ribadire questa grande fede di Don Milani. Lui era proprio un prete e ci teneva alla salvezza delle anime, diciamo, usando un'espressione sua, e di dare la vita eterna. Questo qui anche è un elemento che noi dobbiamo considerare, perché nella nostra fede troviamo la nostra forza anche di lottare, di contestare, di procedere, di suggerire cose che magari non sono così scontate. Scusate. I giorni della Chiesa. Grazie allora al Vescovo Claudio. Don Milani, che poi è stato citato e anche in qualche modo riabilitato da Papa Francesco proprio nei giorni successivi a questo incontro, di cui vi abbiamo proposto un'ampia sintesi. L'incontro del 22 aprile scorso all'Abbazia di Praglia, incontro annuale con il Vescovo, dei dirigenti delle scuole presenti nel territorio diocesano, l'ampio dibattito che ne è seguito e la relazione del professor Andrea Porcarelli. La cultura che serve, scuola e chiesa si interrogano. Ringrazio i colleghi tecnici che hanno consentito la registrazione e la messa in onda di questo speciale, Francesco Galante di Daici, da Mirko Cavallina a voi tutti. Grazie per l'attenzione, buona serata. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.